Ciao, buona scarica quando la fai e continuo serata, vai. Marco, ci sei? E Marco non risponde. Questo è 3009, a tu come va? Benissimo già, non c'è problema. Microfono normale, non gli ho messo nulla qua. Ho messo il microfono normale, dai. Questo che è quello che mi è arrivato da poco. No, va benissimo, va bene, bene, bene proprio. Non so cosa segna in occhi. Hola, cioè a posto. Che tipo come l'altro da Rosmetro. E andava. Ma per il microfono di questo qua c'è scritto Star, certo pare le cose di dati. È originale suo, ma l'hai preso nuovo? Lo fanno ancora? Sì, lo fanno ancora. L'ho preso nuovo anche. Però questo qua c'ha un bel canale, capito? Non è come quello normale. C'ha un tastino, tu lo alzi, lo abbassi, c'è cara di sopra, sotto, ne ha 240. Chissà, come quello di una persona, però non è modificato il suo è normale. Ma per me con questo è modificato, è dalla fabbrica così. Cappa. Ma già è buono però, eh. Ha una ricezione questo apparecchio, nessuna radio ce l'ha la ricezione che c'ha questo apparecchio. Mica il Galaxy si sente bene, ma questo è più chiaro. È più migliore. Ho già avuto pure io il Superstar. Andava che una bomba, una cannonata e c'è radio me. Ehi, hai di quelle di tipologia vecchia, infatti ho preferito questo che prende me quello digitale, capito? C'era anche digitale, più o meno lo stesso prezzo, ma ho preferito questo, perché mi piace di più, c'ha circuito PLL, vecchia generazione, non c'ha microcircuiti, insomma è diverso, capito? È fatto bene questo qua. Scappa. Una curiosità, tu che ce l'hai? La stessa cosa, io vado qua, già, vado a fondo scala, capito, vado a fondo scala, sul rosso, su quello dove c'è scritto 8, se cazzo è, cioè, tra 10 e 8, cioè proprio nel fondo scala qua. Su quella rossa, poi schiaccia se vuoi e ti misura a stazionare, come ho fatto io, vero? Esatto, sì. E praticamente, dipende, quanti fatti stai usando, c'è la scala 10, 100 e 1000. Ora ho capito. Secondo quanti watt usi devi mettere la scala, per dire se tu attacchi 100 watt la metti a 100, se per dire devi attaccare 300 la metti a scala 1000, capito? Ora ho capito come funziona. Vabbè, comunque gli stazionari te li misura sempre alla fin fine. Certo, se un robot ti misura sia le stazionari che il watt. Se poi vuoi sapere il watt, vai su watt, ti dai il watt. E ti dà sia i watt sia, già l'ho visto come sia i watt che la misurazione dell'antenna. Esatto. È uguale. Quel coso lì alla fin fine l'hanno fatto più lago, ma non ci devi mai andare a fondo scala. Che cosa? Sì, il lago deve andare a fondo scala, certo. Ma Rogoso non deve girare tutto, perché ha più corsa. Ah vabbè, tu devi mettere sino a quando arriva a fondo scala. Quando arriva il trattino al fondo scala, lo bulli. È un vagussi, come ho fatto io. Praticamente deve arrivare al rosso qua, dove c'è scritto quello. Dopo il 10 c'è scritto un 8 lì. Ti blocchi lì e poi fai SVR e ti misura tutto. Molto te l'ha fatto pagare, altro non per fare cavoli tu. Quanto l'ha fatto pagare? Oh, non me lo ricordo, mi pare 32. Ah, l'ha fatto pagare un po' di più però, fatto in fine. Di che te l'ha fatto pagare? L'ho aumentato, guarda, come l'ho preso io, l'ho preso già da un bel po', là. È nuovo, nuovo il mio, l'ho usato, ho fatto un po' di antenne, ho misurato con quello lì, e l'ho ragionato perfettamente, 1 e 1. Boh, non lo so, però ho notato che funziona bene, aspetta un attimo, sa che vengo. Ehi, adatto, io ti lascio che devo portare il cane, là. Ci sentiamo, buona serata, buon ciao, salutami Sara. Chi è? Eugenio G. Ciao Eugenio, K, buonasera a te Eugenio. E allora? Ciao Eugì, questo è il 3009, come sta arrivando? Col microfono normale sono, dai. Come sta arrivando di segnale radio? Come una sia. Oh, forse lo stavo mettendo troppo vicino, poi sono curicato, aspetta che mi apri. Perché conosci il curicato che la panasina, guarda, così bene va. Ehi vabbè, l'ho passato. Buona, che cos'è? Ma non è amplificata però. Ma scusina. Ma adesso se col Galassi o no? Chi ne voleva entrare? E oggi repondessi un primo. Oh vabbè. Dai, io chiudo, dai, che sono da portare giù il cane. Ci sentiamo ragazzi, fate vedere tutti quanti. Ehi, ciao, già, ci sentiamo. Ciao anche, ciao Eugenio, dai. Non mi ha risposto Eugenio, dimmi se c'è il Galassi, che lo volevo sapere se deve arrivare. Eugenio ha detto se è il Galassi, se ti è arrivato. Ha detto di sì. Cappa gara. Cappa. Vai, bianco per me. Ehi, dai, sentiamo anche, ciao ciao. Ehi, Eugenio, dimmi. Ehi, ho capito. Non so se sei troppo abbottonato nel rispondere, ma ti ho chiesto il Michigan come ce l'hai. Ok. Per il resto la radio funziona bene, tutti i controlli, RFG, tutte le altre cose, va bene. Ok. C'è il bombolo, sta facendo le prove e continua a disturbarmi, non riesco a parlare, cazzo. Davvero, quindi non ci senti a noi. Ciao Tino, buonasera. Buonasera, ciao Eugenio, se mi ascolti, fate che c'è anche Luca. Ma secondo me la modulazione è sempre la solita. Salutami a Fanali, a Luca. Ma per dirti la verità, Eugenio, scusate amici, stavo giocando un po' su Facebook e ho visto il tuo nome, ho aperto e c'eri tu con lui, quindi non l'ho conosciuto per via del caso, è mio figlio. Mio figlio giocava con suo figlio. La Teozzi. E vabbè, ho visto alcune foto, ho visto Eugenio, ho aperto e vedi con Luca. Vabbè, aspetta che cambio bravo, così che ho questo controllo, anzi, anche tu approfittane, mi guardi questo segnale, vediamo un pochino com'è, Ci c'è la differenza senza ombra di dubbio, questa è la prima radio, sembra l'altra, Ecco qua, questa è l'altra radio, vediamo un pochino come ti ascolto con questa, l'altra lì 7-8, prova con questa, al contrario, con questa è più forte, guarda un po', 1, 2, 3, prova. L'ha più aiutato. Vabbè, qua sono più generoso e qua arrivi quasi 9. Sì, non è amplificata, sembra una radio normale, però è chiarissima, bella, forte. Non è amplificatissima, però insomma, si capisce. Va bene. Io avanti già, dai. Ehi, ciao Tino. Questa modulazione è molto più squillante, molto più pulita rispetto all'altra che si divaghe agganciato, che era satura ed era non era ben definita, dai. Perché l'ho acceso, non ho avuto modo neanche di accordare. L'ho lasciato così, non era. Ma magari si accorda già va bene lo stesso. È la mandronia, perché è un po' distante, quindi non ne ho voglia. Questa è tutta da sé. Bene meda. Sì, adesso con questa è più comprensibile, con l'altra risulta satura e impastata, non è. Comunque vabbè. Questo è il mio rapporto. E c'è qua Santiago 5, cazzo non è che faccio un paracqua come antenna, c'ho la boomerang, cazzo, da quando ce l'ho piazzata, ti ricevevo prima e ti sto ricevendo adesso, non ci ammado nulla, cioè le condizioni sono uguali a quelle del passato. Radio 5, Santiago 5 qua mi arrivi, Jay. Eia, già ti ho capito, non sono così permaloso. Andavè, c'è anche Luca. Boh, non ho sentito, non sto parlando con Genio, boh, non so se è entrato tutti un po' canzi, boh. mi ha fatto un passaggio, ma aspetta, provo a accordare l'altra, dai, così lo faccio scaldare e mi conferma se c'è ancora saturo, lascia così che già va bene. Aspetta che c'è mia moglie che sta spostando l'armadio. No, Santiago 9 con picchi positivi a 9,5. Non penso che abbia cambiato niente, prova a fare l'altro passaggio. Il segnale è rimasto stabile, sempre 9,95, modulati. Va bene. Beh, provo a ricambiare radio già, così almeno mi dai conferma se ha migliorato oppure no, forse perché era anche freddo. Vediamo. Eia. RR, c'è. Ogni tanto Eugenio mi sparisce dalla recensione perché c'è Antonio che sta facendo prove sul 20, ragazzi. Comunque Jay, quando uscivi con la... no, senza niente togliere, perché adesso sicuramente devi anche smanettarci sopra, ma quando uscivi con l'Urano, se 3.000 anni fa era una traguba, adesso vabbè, faccio un paragone così agli olio, eh. È ancora in saturazione? Sì, Tino. Satura è impastata, è proprio... si sente che sei attaccato. Aspetta. E adesso ha migliorato qualcosa? Un po' meglio, ma risulta anche barattolosa, dai, adesso non mi farei mettere aggettivi, comunque non è meno pulita rispetto all'altra radio che sta viaggiando, dai. lo so, dai, non fare paragoni all'altra, quindi questo lo devi accettare per com'è, nel senso che è un G5, non è quel pianeta che conosci, quindi è un Intet, un baracchino. Accontentiamoci, l'importante è che non sia fastidiosa, che non sia molto satura, ecco, adesso sto facendo un passaggio lungo per poter far sì che si scaldi un pochino, questo l'ho appena acceso, là, quindi non, magari più avanti tende a migliorare. Adesso non so se hai fatto qualche regolazione, però rispetto al primo passaggio risulta un po' più chiara, non è... guarda, ti faccio una metafora, è come vedere un vetro pulito e un vetro appannato, cioè opaco, capito? Adesso la sento più presente la voce, più limpida rispetto al primo passaggio, che era troppo satura, capito? Era sporca. Sì, poi vabbè, diciamo che l'ho appena acceso, ti ripeto, e sono metà potenza, quindi e ci vorrei provare a accordare di nuovo, perché questo all'inizio devi accordare. Sembra che sia già in accordo, magari sta scaldando, sta migliorando anche un po' il tutto, prova. Sì, è leggermente migliorata rispetto al primo passaggio, sì, capito? Adesso risulta un po' più limpida la modulazione. Va bene, ora lascio un attimino così e poi magari provo a dare la massima. Andavè, genio, ci sei ancora? Sì, io con questo qua lo stesso, ti sto ascoltando benissimo il radio, leggermente più basso, ma niente di che, dipende magari dal ricevitore della radio, ma l'altro è di 9,5 modulati, questo 6,8 quasi 9, quindi poco cambia. Sì, credo che questa modulazione sia come, non ti conosco di persona, ma posso dire che credo che sia come la tua voce naturale. Va bene. Vediamo un attimino, invece faccio una prova io. Ecco, tipo qua, guarda, prova già, si è migliorato ancora, anche come segnale credo che sia salito. Capo, vabbè, ma la radio magari a te fa bene, a Gianni no. Sì, non è che non mi fa bene. ti sto descrivendo esattamente quello che sente il mio orecchio. E niente, quindi tutto qua, sto facendo proprio un rapportino tale quale. Sì, adesso è più comprensibile rispetto alla prima volta che ho attaccato, che era proprio satura e veramente proprio opaca, dai, come modulazione. Bene, bene. Infatti guarda, adesso deve stare un pochino là, vabbè, non fa niente, no? I rotori sono belli, però devi starci sopra, accordare fino a che trovi il tuo punto di incrocio. Anda bene, anda bene. Noia. Avanti G. Santiago 5, OG. Anche qua, Santiago 5 con quest'altra radio, vedi già, adesso ho cambiato anche stesso microfono, però un'altra radio. Eugenio, la modulazione la sento sempre bella squillante, è che non ti posso dare un rapporto vero e proprio, con l'altro sì, con questi sono baracchini, quindi accontentati da 5 a 7, ecco. Anche questa già è saturazione. Leggera, leggera, sì. La sento, c'è un pizzico, dai, non so in quali condizioni sia, boh, comunque si sente che appena appena, dai. Ancora, è così staccato, non ce n'è quasi niente. Questa è un'altra atmosfera, quindi. Infatti ho detto appena appena. Vabbè, dai, si sente che è spinto. È quello che ti voglio dire, capito? Si sente che è agganciata, che è agganciato qualcosa, dai. E quindi rispetto all'altra, questa è molto più squillante, più pulita, dai. Però si sente quel pizzichino di aggancio, dai. Va bene, dai. Sono contento perché tu sei orecchio fino, quindi gli altri magari hanno un po' di... non dico prosciutto, ma... E quindi magari non notano queste piccolezze. No, no, no, ti dico quello che sento e quello che sto ascoltando, senza filtri. Adesso vabbè, ho fatto il paragone un po' con la cucina, un pizzico qui, un pizzico là, però dai, la sostanza alla fine è quella. Andare, vabbè, ogni tanto, vabbè, sono qua, vedo rumori casalinghi, quindi non ci fare caso. No, no problem, no problem. Guarda, io ho rimesso il watt originale alla radio, quindi sono 4 modulati 5. Qua lo smitter mi dà, sia lo smitter che il wattmetro mi dà dei piccolissimi picchi positivi che fanno sempre piacere. Adesso te lo chiedo io, come mi ascolti? Guarda, qua ti sto ascoltando benissimo, con un Lincoln fai da 7 a 9, quindi picchi abbastanza buoni. Se vuoi cambio, ti ascolto con l'altra, dai. No, no, vabbè, no, giusto per la cronaca, per essere più specifici, dai, no, ho rimesso la potenza 4 watt, qua mi dai i picchi, sì, 4/5, dai, vedo l'aghetto che è bello vispo, e niente, dai. Bene meda. Adesso vediamo un po' con l'altro, che esito dai con l'altra, dai. Questa è più selettiva, questa fai da 9.20 a 9.22 in picchi positivi, la radio è ottimale, non c'è niente da dirti. Perfetto, sempre il solito M95 della ZG, con la batteria carica, fa sempre il suo dovere, dai. Non voglia. Va bene signore, dai, io mi devo attingere a fare un po' di cosette qua a casa per stare alla cena, quindi vi saluto, ecco, per piacere piccolo corso, non sono stato molto presente in radio perché causa tabacco, rientro tardi, quindi c'è poca voglia di stare alla radio, ma già troviamo 5 minuti ogni tanto per salutare. Va bene, ti rilancio il mic, dai Eugenio, così saluto, approfitto a salutare e poi vado a fare carica anche io. Dai Eugenio, a te. Sì, guarda, sono già attaccato lì, è stato sequestrato il telecomando, in realtà che mi tocchiamo la televisione, ma va. Ciao Tino, buona serata, buona carica e... ci sente appena le cose collimano, dai, ok, e anche io, dai, mi sa che sgancio, mi sono scaricato un bel film da vedere stasera, quindi mi sa che piano piano mi sistemo anche io. E oggi io ti saluto, dai, ci aggiorniamo magari un altro momento, così magari facciamo dei test migliori, ok, dai, buona serata a Tino, Eugenio e gli ascoltoni. QVT esecutivo da parte della stazione Lubrofetta, coordinate stazione ferroviaria. Ciao, ciao, sentiamo. Sicilia, chi è? Sto facendo le prove. Dice tutto. Non mi faccio più. Lo so, c'ho il baracchino omologato. Sto facendo delle prove col rosmetro. A vedere se funziona. Forse ho già capito, va. Mi stavo facendo le prove col coso, con questo rosmetro, l'ho voluto provare con una radio più base, capito? Per vedere come funzionava. E aspetta che metto l'altra radio, dai. È strano però, Tonio. Vabbè, dai, metto l'altra radio, è solo una prova. Capito solo che fino a prima si forte perché mi eretto sotto. Ecco, non c'è più se che ci segnava il reale. Sì, ci voglio, già un po'. Che buco. Se questo mi sei fatto scala. Ma se mai giornali, se basta, io sono scala. Questo non ci sono, non ci sono fatto. Ma se io non ce la faccio. Capa. Ah, pure a me mi prende da tutte le parti, attenzione, non è che non mi sentono, sto facendo delle prove normali perché mi occorreva di fare quel tipo di prova. Ma è fatto sì, aspetta un attimino. E così già va meglio, dai. Ora, ora.